cosa che non vorrei avere. È qui che il tempo passa e brucia senza parlare. Cos'è cambiato? Cosa non so, non so rispondere. È come un riflesso che spegne ciò che riflette. Che non dovrei avere. È qui che il tempo passa e corre senza parlare. Cos'è cambiato? Cosa non so, non so rispondere. È come un riflesso